Poi, in seguito, un sibilo a sinistra iniziava a scorrere nei tubi. Giorno finale, il sibilo si era trasformato in tremore, tutti i rubinetti venivano aperti. Ognuno di noi si distribuiva in casa a seguire l'evento con grande elettricità. Si guardava, si aspettava, in attesa, e poi il sussulto dell'acqua che prepotentemente tornava spruzzandoci tutti. Una festa, anche noi a saltare, a ballare. Tutto quello che era rimasto da parte veniva gettato. La vasca, ridotta ormai ad uno scolo, veniva svuotata all'istante. Anche mio fratello, nel frattempo, svuotava piano piano il suo bicchiere. Sembravamo tutti più sereni, ci scambiavamo opinioni con i vicini, ci si parlava tra la tromba delle scale, scambiandosi aneddoti sullo scampato pericolo. Si stappava anche qualche bicchiere di vino. Poi le porte sarebbero tornate a essere chiavistellate ben bene. Anche la mamma e il babbo sarebbero tornati a chiudere misteriosamente la porta della camera da letto. Solo io avevo ancora conservato la boccetta notturna, quella della Madonnina, per i giorni seguenti. E silenziosamente ne bevevo un sorso alla volta per esaudire il desiderio che si ricominciasse tutti da capo, che tutti stavamo fuori, che tutti si davamo una mano. Ma che fai? Disse mia madre, quando si accorse che in corridoio si segnava su niente, che al posto della boccetta era rimasta solo una macchia più chiara sulla carta da parati e che sagomava perfettamente la Madonnina. Che stai a fa'? Ma non ti vergogni? Gioco, mamma, gioco. Gioca ancora ad hanno tolto l'acqua. Acque nostre. Si dice che siamo composti per il 60% di acqua, che avremo bisogno di bere almeno 3 litri di acqua al giorno, che la terra sia composta per i 2/3 di acqua tra dolce e salata, che il simbolo H2O sia l'unico che ancora rammentiamo delle poche nozioni di chimica. Si dice che sia stata attraversata, deviata, studiata, venerata, solcata, succhiata, devoluta, confluita, imbottigliata, inquinata, sciolta, trasformata in vino. E senza trascurare gli scandali, i silenzi più o meno complici e gli sprechi domestici, quanto saremo disposti ancora di berne, di storie, di stronzate? E quanto ancora di acqua passata? E quanti riescono ancora a perdersi in un bicchiere d'acqua? E quanta di acqua di me è passata sotto i ponti? E quanta ne è rimasta se facciamo acqua da tutte le parti? Acque perse. Eppure si dice che per venire al mondo si devono aprire, ma anche che quelle del Mar Rosso ormai si sono richiuse per sempre. E allora rimangono il mare, la pioggia, i laghi e i fiumi, i rubinetti, le fontanelle, le pozzanghere, gli sputi. Fredda, anche se stavo in braccio a mamma, mi è scivolata sulla testa, fredda. Non so se sia stato lo Spirito Santo o la temperatura. So per certo però che piansi tanto, un urlo chiaro, e che la mia minuscola nota salì sfiorando le candele accese dal fonte battesimale fino alla cupola centrale per distribuirsi oltre le navate laterali, sino alle colonne a rosone d'ingresso per tornare indietro e ricongiungersi recuperando la nota successiva e via. In seguito altri battesimi. D'estate, al primo temporale, i miei ci mettevano un fila sul balcone per goderne la forza, la freschezza, che ne so, memoria di un memoria di un goliardico passato contadino, forse. Sta di fatto però che gli altri tiravano giù le serrande, mentre noi le spalancavamo. In compenso non ho mai avuto paura della pioggia. Ho temuto le profondità del mare, ma non i cavalloni. Rullo di schianto che rigettava indietro sulla sabbia ed invitava a ricominciare. Ho detestato lavarmi per forza, ma adoravo la vasca da bagno, bella, morbida, invitante, con la schiuma a coprire la testa e giocare a resistere sul fondo 10, 20, 30, 60 secondi e trattenere il fiato per poi risalire insieme al pisellino dritto, dritto, dritto come un periscopio. Ho sguazzato come pochi sulle pozzanghere, specchio capovolto di un cortile che era tutto l'universo conosciuto. Ho tirato sassi di sbiego per vederli saltare sul pelo dell'acqua ferma, quella degli stagni, dei laghi. Ho partecipato a gavettoni memorabili, infrangersi come mille coriandoli a gocce sulle teste malcapitate di un'uscita scolastica nei giugni caldi. Ho nuotato nel cloro delle piscine, dando forma al piacere ritmato di un respiro carico di bollicine. Ho fatto anche sesso, in una notte di mare straniero, contro il cono luminoso della luna. Ho amato e amo ancora tornare tutto inzuppato a casa, dopo una pioggia fulminante, abbondante, nelle campagne saporose di terra. La pioggia. Solennità. È il termine che mi viene subito. Una naturale solennità nella pioggia. Il cambio dell'aria, il cielo che cambia i colori, il preannunciarsi dell'evento. Tutto sembra fermarsi, come un momento apocrifo, un istante in cui tutto sembra immobile. Poi il primo tuono in lontananza, i cani spaventati, il piccolo fruscio degli alberi, il vento, e poi lentamente. La pioggia. Poi sempre più forte, sempre più forte. L'inconfondibile appiattimento cromatico, il suono di fondo che l'accompagna, l'elementare indispensabilità. La pioggia, intendo dire, tutto tranne gli acquazzoni estivi, rinfresco sulla pelle arrostita dal sole, e lasciamo perdere la pioggerella primaverile, fresca e corroborante da bere, buona anche per pulire gli occhiali. Lasciamo perdere i temporali improvvisi che spingono ad una corsa ai ripari estrema, drammatica, quanto preistorica. E accantoniamo pure i diluvi, soprattutto quelli di natura biblica, a cui spesso si fa riferimento. Lì il Padre Eterno si è giocato il carico facendo sua la mano. Ora queste acque qua non sono che scartine, il liscio di Dio. Quella lenta, lenta e inarrestabile caduta del cielo. Quasi una trasfigurazione al contrario. E quando il cielo scende così in basso, pochi dubbi, benedizione o maledizione. E in città è così. O ci si rompe o ci si spaventa, si viene presi in contropiede nonostante gli annunci fatti. E nonostante il secolare rapporto e le protezioni adottate, c'è un'ansia sordida che attanaglia molti cittadini. Una preoccupazione veramente preistorica. Abbiamo ancora paura della pioggia, un timore che coinvolge tutti sin dal mattino. Dai Piero, sbrigati che arriviamo tardi. Ecco mamma, adesso arrivo. Allora ciao cara, ci vediamo questa sera. Sì, ciao caro, fai attenzione. Dov'ha? Su una macchina, in mezzo alla pioggia, davanti a un computer, in un ufficio. Dov'hai? Chissà dov'ha. Che è sta preoccupazione? Ma allora Piero, ma ti vuoi sbrigare? Ecco, ecco mamma, ma che c'è? C'è che piove. E allora non è normale. Ma mamma, è novembre. Fuori di casa siamo al solito indaffaratissimi, eppure a piedi ci si muove con più circospezione. Più civilmente, si fa per dire. Si corre meno, pure. Ci si impone una maggiore indulgenza sulle strisce pedonali. Dipende. Si offre un passaggio sotto l'ombrello, si fa posto sotto un tetto di fortuna, all'androne di un palazzo, oppure ci si ristora momentaneamente al bar. E qui si prende il caffè, sbirciando fuori, ed ognuno partecipa di quell'evento collettivo come se fosse l'unico a subirlo. Titlin, titlin, titlin, titlin, il cucchiaino nella tazzina. Titlin, titlin, titlin. Mamma come la fa oggi? No, ieri l'ha fatta di più. Se devi vedere la settimana scorsa, titrin, titrin, titrin. Ah, oh, a me mi pare che come piove oggi non ha piovuto mai. Ah, vabbè. Che fai? Te tuffi? Ah sì, io esco. Ciao Mario. Ciao Mario. Ciao, ciao. Niente a che vedere col caos che si produce nel ritmo del traffico, gestito dai tergicristalli e dai clacson inferocidi. Qui la componente di grazia dell'umanità stenta a ritrovarsi. Grida, intemperanze, sgommate in repentina, autobus umidi e affollati, scarsa visibilità e rumore eccessivo delle areatore sul parabrezza che fatica a disappannarsi. E nel chiuso degli impermeabili zuppi e degli abitacoli stretti, il senso di claustrofobia raddoppia, trasformando gli effetti di questa sagra tragica in una involontaria comica. Al rientro a sera il logorio continua. Si ritorna e si viene accolti quasi come dei salvati. Le pantofole raggiungono immediatamente i piedi prima ancora di segnare il monocotto a terra. I capelli ben frizionati con l'asciugamano e via. Dai, è tutto passato, sei tornato. Quarto piano, l'acqua non salirà mai fino a qui. L'ultimo sguardo dalla finestra per verificare che piova ancora. Perché? Perché lo fai? Perché ora sei sulla banchina. Hai messo i piedi all'asciutto, nelle pantofoline. Il mare aperto che ti ha spaventato è finito e allora guardi e sbirci cinicamente quelli che sono ancora lì fuori. Cazzi vostri, io sono tornato. Eppure non si parla d'altro. Nei giornali, in televisione e su internet è tutto un susseguirsi di notizie, di riferimenti, di statistiche, di previsioni catastrofiche di come si potrebbe scientificamente provare a dirigere questi rovesci indritti per i paesi poveri, arsi dal sole. Di scambi di informazioni sugli interventi casalinghi, sul perdurare del disagio. A disagio quindi più solidali? A disagio quindi più generosi? Magari. Allora dovrebbero capitarci centinaia di calamità a distrarci dal menefrego del tempo bello. Ma tant'è, piove. E prendo l'ombrello. Dico, ma è da quando siamo nati che lo conosciamo? E ancora oggi produce imbarazzi imprevisti. Insomma, lo si vorrebbe indossare come un lord inglese portandolo sotto l'ascella, o agitarlo come quello di un anziano generale, oppure alla maniera di Jim Kelly. E comunque vada in strada, se è vero che ci scontriamo, ci incrociamo e dunque facciamo un gran movimento, guardandoli dall'alto, se uno potesse sollevarsi sopra il grigio dell'asfalto. Gli ombrelli colorano nel loro movimento la tavolozza monocromatica della città, facendola prematuramente carnevalare. Ma se ci si rintana volentieri nelle case e si osserva fuori, plic, plic, plic, si diventa inattivi, plic, plic, plic, quasi passivi, plic, plic. Qualcuno ha detto che se piovesse sempre non ci sarebbero più le guerre, ploc. Non lo credo. Pensiamo all'inferno di fango, delle guerre, alle stesse battaglie, per non parlare di altri. No, l'acqua non ha mai fermato nessuna guerra. Anzi, l'ha istigata, la istiga. E l'occupazione e lo sfruttamento delle sorgenti d'acqua saranno la nuova frontiera belligerante dei prossimi decenni. L'accanimento con cui ci si è gettati sul mercato dell'oro blu non fa prevedere niente di buono, anzi. Ma l'acqua è un bene indispensabile, si afferma, appunto. Ditelo agli africani quanto gli costa un sorso d'acqua. L'Africa è una groviera, materie prime contro un bisogno primario. Dillo a tuo figlio quanto ti costa una bottiglietta d'acqua a Gardaland, a Mirabilandia o dovunque. L'acqua ormai si beve in bottiglia. L'acqua è in bottiglia. Se chiedi a un bambino a scuola da dove esce l'acqua, ti risponde dalla bottiglietta. L'Italia è tutta una fonte, è vero, ma buona solo per essere addizionata con la nitride carbonica. E mentre torni a casa con la scorta d'acqua per una settimana, se fatta sera le luci si riflettono traditrici sul parabrezza, così che in lontananza non capisci perché a terra si noti così bene il riflesso del bagliore del lampione. Ma prima che tu possa fare qualcosa è già intuito che davanti a te c'è la buca, coperta da una pozzanghera intonsa, quasi bella, al centro della corsia. Vorresti spostarti, ma proprio in quel momento sulla tua sinistra, come sempre, si appresta il motociclista intabarrato e per evitare lo schianto trattieni la traiettoria che fila dritta, dritta, verso la buca. Nemmeno la tua bestemmia riesce a coprire il rumore della ruota che si sgonfia, andando a confondersi col rumore della pioggia. Thank you. le pozzanghere. Le pozzanghere. Che vedevo lì? Da piccolo una pacchia. In lontananza un luccichio complice di quello più sinistro del mio occhio. La vedevo. Un attimo, una rincorsa e poi lo stacco. Lungo. Beh, oddio, diciamo lungo. L'istante della sospensione, poi la ricaduta fragorosa, piedi uniti, salto in lungo senza pettorina numerata, al centro dello specchio d'acqua immobile, ciaf, ciaf, ciaf, ciaf, ciaf, un tuffo direttamente dal marciapiede, mai visto. E poi zuppi e inzaccherati, entrare fieri in casa dopo il trionfo, suggellato in cortile, e il segno stampato sulla guancia da tua madre, di sera, nel letto, bruciava, ma stava nel conto. Non si gioca con le fontane, non si gioca con le pozzanghere, vabbè. Al più si ristampa ancora nella memoria per non dimenticarlo la prossima volta, ma era impossibile. Pozzanghera, specchio riflesso di un mondo capovolto, dove tutto è pareggiato, pulito di pioggia, ombra a colori proiettata in terra, cielo celeste sul catrame. Mosso dallo sputo insulto del passante, scatarro galleggiante, rimosso, dai nostri gareggianti a vedere quello che regge di più. Che poi non sono mica tutte uguali, queste pozzanghere. Ci sono quelle del centro, scomposte dai sanpietrini, quelle della periferia, sprofondate dall'abusivismo cialtrone, dei manti stradali mai finiti. Quelle lisce sulle scalinate dei sacrati delle chiese, quelle fangose intorno agli alberi, quelle che non lasciano scampo ai passanti distratti al sopraggiungere delle automobili e quelle che gli automobilisti di proposito non vogliono evitare. Quelle che se passa un autocarro tutta la gente sulla pensilina in attesa dell'autobus fa un passo indietro, a tempo, da sembrare quasi una gara di nuoto sincronizzato. Quelle che da subito t'avverte che la cucitura della tua scarpa ha ceduto per finire a quella che formi tu a terra. Sul pianerottolo in attesa che ti si riapra la porta una volta scalpato col non ti sopporto più per accorgerti che dall'altra parte se n'è formata una più grande con le lacrime del non farti più vedere. Quella di mio padre che venendo dalla campagna non avendo mai veduto il mare ma proprio mai al suo cospetto esclamò in dialetto Dio buono che pozza granda. Quella che mi sorride quando mi sporgo e affacciandomi mi riflette di nuovo piccolo coi sandalini aperti, calzoni corti e la camicetta sotto le bretelle. E allora anche tornando da lavoro non ne posso fare a meno, faccio qualche passo indietro, mi accerto che nelle vicinanze non ci sia nessuno, è il silenzio del garage, prendo un bel respiro, sfogo il ghigno sinistro dall'occhio scaltro, uno scatto come i bei tempi e tenendo forte il portatile da lavoro, ciaf ciaf ciaf ciaf ciaf, felice, sì, felice. Scemo, sì, vabbè, scemo, certo. Scemo ma felice. Agli occhi di chi invece ha assistito alla scena osserva ancora starmene lì a veder tornare l'acqua ferma per rimirarmi dal basso verso l'alto e scoprirmi di nuovo quei sandalini, pantaloncini e bretelle. Intorno a me ce ne sono altre. Ognuna di loro rimanda un'immagine diversa. Pozzanghere. Le uniche immagini non a pagamento. Seduto sulla sabbia, in inverno, io l'ho sentito parlare, lo giuro. Ho partecipato di una rivelazione e allora ho trascritto nella mia mente le sue parole e poi sulle pagine e come un oracolo, lui, il mare, mi ha parlato. In alcune stagioni sto proprio in pace, anzi riesco a divertirmi infrangendomi contro quegli stupidi sbarramenti chiamati scogli. Scogli, figurati, ci vuole ben altro. Salto che è una bellezza, in certi posti vado su, su, su e c'è sempre qualche umano che si fracida e ride. Di che non lo so. Non li capisco gli umani, ma sono in buona compagnia. I miei inquilini pesci me ne raccontano di cose. Altre volte seguo la mia marea, mi cullo da me mentre salgo e scendo fra i sassi di certe baiette, ma certe baiette che mi fanno arrossire di bellezza. Oppure faccio un po' di musica tra le grotte, sbatacchiando quei gozzi colorati che chiamano barche, che tanto mi fanno il prurito durante il giorno con i loro motorini sulla schiena. Niente a che fare con quelle chiglie silenziose che ogni tanto frusciano. Zitte, zitte, sulla mia pancia, trascinate da quel filo di buona donna del mio amico vento. In certi posti mi copro col piumino invernale di ghiaccio e tutto diventa bianco. In altri mi ritiro scoprendomi tutto e mi diverto un sacco a prendere in giro quei granchi che si affannano a rincorrermi per aggrapparsi. Che vi devo dire? In inverno è una pacchia. Poi si avvicina la primavera. Ecco, mentre per voi umani la primavera sono le margherite, i fiori, i campi, l'azzurro del cielo, il bel tempo, i baci, per me la primavera è il rumore del motorino, trrr, gruppo elettrogeno, trrr. Si avvicina la primavera e fanno la loro comparsa alcuni omini che girano sulla banchina armati di metro, calce e radioline, mettendo chiodi e corde sospesi in palloni gonfiati e reti di protezione. Qui c'è il divieto di balneazione, qui no, è certo, e qui altro, e questo è mio, e questo è tuo, qui metto gli ombrelloni io, qui metto gli ombrelloni tu, e certo, certo, farsi i cazzi loro si chiama balneazione adesso, navigazione, salvataggio, ed è solo l'assaggio. L'assaggio dell'estate quando, rumore di fondo, di folla, di passi, arrivano i villeggianti, che s'ammucchiano, inveiscono, gracchiano, si spogliano, si scremano e quando se ne tornano a casa mi lasciano sfinito, usato, scempiato, pisciato. Mi fa pure rabbia ritrovarmi lì tra i piedi, in quei luoghi dove si immergono piano piano silenziosi ma anche irrispettosi, venendomi a cercare in fondo dove è buio e dove posso però stringerli in un abbraccio e sentire le loro tempie battute dal cuore che va a mille e poi tra bolle di tutte le grandezze risalire fino in cima. Qualche volta mi fermo e mi metto a osservarli. Che brutti, brutti con quegli occhialetti e quegli scaldabagni sulla schiena pieni di rubinetti e tubi e quelle pinnacce. Ma chi mi vuoi far credere di essere un mezzo pesce con l'embolia a due passi? Almeno altri più delicati si tuffano come mamma li ha fatti e trattenendo un po' di respiro loro vengono a giocare con me, con le mie acque, con i miei colori. E mi fanno piacere pure quelle umane che si mettono distese spudoratamente integrali sul mio palmo e si lasciano coccolare dal sapore del sale per poi farsi scottare da quell'altro disgraziato di amico sole che non ne vuole proprio sapere di tramontare levandosi dalle palle insieme a tutti quanti. A sera almeno se ne stanno sotto quelle lucette colorate a mangiare quei fessi di pesci che credono, ce ne sono altri ancora, che il cibo arrivi gratis, appeso addirittura ad un filo, a saltellare ora qua ora là, ritmo assordante, a tirare palloni dentro reti improvvisate. A notte tutti tappati a morire di aria condizionata mi ritrovo in compagnia di musicisti, fuocherelli, già più calmi, dove melodie e chincaglierie si intrecciano dietro a un fumo orientale che fa tanto ridere, fa tanto amare. Certi giorni mi scopro avido e vado verso le foci dei fiumi per dissetarmi di acqua dolce che pare sia buona da bere, roba fine fatta per consentire benessere. Eppure mi arriva dentro piena di schiuma e di maleodoranti liquami. Ma che fa? Anche gli umani bevono schifezza e sembrano allegri. A volte al largo mi ritrovo ad essere ricoperto senza respiro da una melma nera, viscosa, fuoriuscita da quelle chiattone scassate a forma di biscotto che girano avanti e indietro portando carburanti buoni allo stress quotidiano che, mi dicono, sia la principale attività degli umani. E non sapete quante volte mi ho dovuto inghiottire di navi, quelle ed altre, con vele o senza, con cannoni o senza, con passeggeri o senza, allestendo il più grande museo della tragedia umana. Milioni e milioni di corpi che gonfi di me se ne scendono giù da sempre con le loro corazze, alabarde, stendardi, berretti e gradi per finire in scheletriti, privi di vita e senza nessuna possibilità che il rimorso della propria sventura. Altre volte mi tocca assorbire quelli che caduti da un gommone in 30, 40, 50 vengono giù da me involontariamente perché non accolti, perché non trattenuti e io cerco di afferrarli, di prenderli tra le onde, di respirarli, di dargli ancora ossigeno, ma ho paura di fare ancora peggio, di ritardare ancora la morte che forse in quel momento è l'unico gesto di pietà. Là sotto, io li guardo tutti insieme, ricoprirsi e inghiottiti, e trattenere tutto questo ciarpame. Ma nonostante tutto continuano a scrivere, a parlare di me, a fare convegni. Provano a curarmi le ferite, mi mostrano su quelle belle cartoline satinate da non ti scordar di me, per tirarmi su, ma non mi fregano. Un giorno m'alzerò davvero, mi aprirò dappertutto, d'accordo col Padre Eterno, farò una buca enorme e dirò: vieni, vieni umano, vieni a vedere, guarda sotto, guarda cosa c'è. Pensi di trovare il corallo rosso, pensi di trovare i pesciolini, guarda, guarda che cosa c'è, oltre la crosta terrestre, inghiottita dentro la crosta terrestre. E quando mi alzo e vorrei alzarmi veramente, gonfiarmi, gonfiarmi, arrivare per metri e metri sopra una spiaggia, per inondare tutto e chissà ricominciare da capo, lo vedo. E lo vedo, sta lì, piccolo, indifeso, nudo, biondo, con in mano la paletta e il secchiello, gialla e rosso. Lo guardo e mi sciolgo, mentre con quelle manine viene a raccogliere un po' di me nel suo secchiello, attenta a non bagnarsi gli occhi. Allora mi sdraio accanto a lui, fermo tutto e lo schizzo un po'. E lentamente torno a mareggiare con onore, perché non posso fare altrimenti. Perché per lui, in quel momento anche, solo in quel momento, io, per lui, sono il mare. Il mare. Il mare, capisci? Il mare. Perdeva la partita di pallone al campetto, se poteva recuperare correndo più forte. Chi arriva ultimo beve dopo e via, col fiato già spremuto. I più svelti iniziavano a mulinare le braccia, a piegare la testa di lato, ora a destra, ora a sinistra, e le gambe dietro, come nei cartoni animati. Gli altri facevano gruppo, erano sempre gli stessi che si staccavano e giungevano prima. Ma non era mai certo chi di loro avrebbe toccato per prima la fontanella. La fontanella, ce l'avete presente? Dalle nostre parti si chiama Nasone. Ci stanno addirittura delle cartine per andarla a trovare. L'avete guardata mai? C'ha quella forma perché è stata fatta in quei tempi, però se la guardi, l'aria austera e buffa al tempo stesso, metà spaventapasseri, metà tronco parlante, l'abito da sera un po' andato ma decoroso, pronto sempre a fare la sua bella figura, la pianta larga e inossidabile nonostante i decilitri d'acqua, le piccole stucature da capitello nano, quel modo burlone che ha di gettare acqua quando è investita dal vento. Insomma, mi piace così, liscia, senza le orribili manopole laterali che gli hanno infilato o lo stolto rubinetto a pressione che gli hanno messo sul naso che fa tanto da lavandino scolastico. Certo, tutta quell'acqua che se ne va non è un bene. Un rimedio tocca accettarlo, meno deprimente al limite. Però la fontanella è irresistibile. Io arrivavo immancabilmente tra gli ultimi, anzi, vabbè, ultimo. E allora mi beccavo tutta l'acqua schizzata dai primi, il rito era inevitabile, quindi mi toccava. Ma comunque d'estate, dopo la sudata e l'accanita, era una cosa meravigliosa. E si beveva tanto, tanto, per rimanere stecchiti. Anche ora, devo dire, dopo una passeggiata estiva, soprattutto romana, se la si incontra c'è la fila. E non è sempre un bel vedere, eh? Insomma, alcuni si appoggiano appena, altri si inzuppano con le loro dita maldestre, altri sbrodolano tutto intorno, oppure affondano a tal punto da lasciare attoniti gli altri in attesa. Poi però, quando arriva il mio turno, L'esperienza di allora mi torna utile. Attappo con delicatezza il suo fiotto con le due dita della mano sinistra e mentre la destra cura di reggermi, sullo stesso lato la gamba si stende all'indietro equilibrando i giusti contrappesi. Avvicino la bocca alla distanza imparata e lascio che la fontanella d'acqua mi riempia fresca e preziosa. Quando mi allontano, felice e dissetato, la guardo di nuovo con affetto, luogo geografico dell'anima. E solo allora, nel tornare per la mia strada, asciugo le labbra assaporando l'inconfondibile gusto ferroso che rimanda ai viaggi in treno, alle corse sui binari vuoti, in un'unica continuazione. Vabbè, regà, ma mo che famo? E mo se scavalca. Sempre amato la fisicità, ma forse è proprio per questo che li ho sempre preferiti dipinti, come i paesi che si cullano intorno alle loro acque. E poi mi pare che i laghi soprattutto vengono raccontati, stanno nei romanzi, nei racconti, nelle parabole, insomma tante cose si dicono o si sentono dire intorno alle loro acque. E infatti i tuoi genitori raramente ti ci portano, questa cosa del mulino che puoi andare sotto, che non ti trovano. Insomma, c'è chi intravede vecchi dinosauri che affiorano qua e là, chi vecchie città che a periodi ti emergono ma per uno strano gioco di dighe, chi profeti che addirittura ci camminassero sopra. Dei fiumi altro. Beh, con i fiumi è una poetica forte. E tanto per i fiumi di parole, ma è proprio sul loro scorrere. In attesa o solo in attesa di cadaveri che dovrebbero ridiscendere, ma a risalirli, non i cadaveri, le acque, si potrebbe tornare a ritrovarsi, a cercare qualcosa che superi l'abituale movimento in discesa, questo rotolare da basso delle cose, di tutte le cose. Strappare metri alla corrente, imbarcarsi dunque e partire per sapere quanto possono due braccia controcorrente. Portandosi con sé dietro un'eredità, magari grande, enorme, forse pesante, ma non fa niente, provarci. Un'eredità che abbiamo assorbito. Che ne so, mi penso a quella del Giovanni Battista e quella di Eraclito di Efeso. Uno tra le sue acque per la verità e l'altro in difesa della verità. Ancora mi piacerebbe vederli fare una disputa fra di loro e finire a bere uno con l'altro. Ma allora perché non partire proprio da lì? Me li immagino veramente tutte e due. Io, altri, così insieme, partire dal Giordano, verso il Nilo, risalendo il Tigri, l'Eufrate, fino al Tevere, oltre il Po, per raggiungere il Tamigi, attraversare la Senna, percorrere il bel Danubio blu, le rive del Don e il Volga, fino alle fonti dell'Indo, fino al Gange, dove veramente puoi vedere qualcuno camminare sopra, per saltare d'un balzo e guatare il Congo. Che bel nome che è Congo per un fiume. Per avventurarsi fin sopra il rio delle Amazzoni e le cascate di Guazù, qui superate gli sbarramenti e gli orribili cartelli turistici, giungere fino al bordo del famoso salto di 50, 50 e 50 metri e poi trattenere, respiro e poi buttarsi. Un salto interminabile fino a toccare lo specchio schiumoso dell'acqua avvertendo nel peso la potenza, fino a toccare il fondo più fondo del fondo, fin dove il blu scuro torna a fare quasi trasparente. Farsi trasparente, così trasparente da permettermi finalmente di vedere la fine. Ecco, la fine. Dove tutto è di nuovo sommerso, avvolto nel silenzio rispettoso di un'acqua prenatale. Decisa finalmente a riprendersi il mal tolto. Per costringermi, semmai, a ripensare, a ricreare, a ricreare, difendere, proteggere, tenere, tenere. Ora che l'acqua qua giù, filtrando una luce più trasparente che mai, sembra essere tornata potabile, buona da bere. Poi una forza mi costringe. Mi sento trascinare di lato come risucchiato, stretto dentro un'idrovora e poi un tubo infinito dove vengo trascinato per metri, metri, metri e sempre più stretto, convogliato dentro un canale che sbuca sotto un pozzo. Qui vengo trascinato in un rubinetto per uscire intorno ai piedi scuri e nodosi e tatuati di uno sciamano. Ai suoi piedi. Non è male essere assorbito da quel tale. Nonostante il pozzo, lui continuerà a cercare l'acqua. Alcuni dicono perché chi gliel'ha portata gli ha parlato di licenze, di proprietà, e che lui, fuori onda, abbia dato risposte strampalate, ma forse neanche tanto. Si chiedeva se il padrone di quelle acque fosse anche proprietario delle nuvole, della pioggia, del vento che le trasporta. Sta di fatto che ora che lascio impronte insieme a lui mi sento bene, di nuovo buono, potabile, tornato da bere.